Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, puntata speciale questa di questo caldo ferragosto, con me Nadia Zammitti, Mira Lucchetti, Carmelo Lauricella invece in regia. Ricordo le nostre coordinate sui social, cercatemi su Twitter, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, infine la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Puntata speciale quest'oggi perché dopo settimane in cui raccontiamo la grande attualità internazionale, i conflitti, la crisi siriana, quella irachena, quella a Gaza, abbiamo deciso un attimo di prenderci una pausa per riflettere. E riflettere sul fatto che ogni qualvolta scoppia un conflitto o vi sia una crisi, vi è da valutare non soltanto la perdita in vite umane, i costi sociali, dell'impatto sociale su popolazioni che vengono menomate dal conflitto, ma poi c'è tutta una questione che riguarda il patrimonio artistico, culturale e naturalistico delle zone che sono colpite dalla guerra o dai conflitti. E prima di introdurre il primo ospite di questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, andiamo a sentire quali sono i principi a cui si ispira l'UNESCO per stilare la sua classifica. Per patrimonio culturale si intende l'insieme di beni che per particolare rilievo storico, culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione. La definizione piuttosto recente allude al valore economico attribuito ai beni che lo compongono proprio in ragione della loro artisticità e storicità. Il termine patrimonio indica inoltre l'esistenza di una normativa che riguarda l'insieme delle cose di valore, i cosiddetti beni culturali. Ogni anno conflitti armati, guerre, inquinamento, contrabbando, urbanizzazione incontrollata, terremoti e altri disastri naturali mettono a rischio la conservazione di gran parte del patrimonio culturale mondiale. Secondo la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'Umanità del 1972, la World Heritage Committee dell'UNESCO può aggiungere nuovi siti e beni culturali, tangibili e non, nella cosiddetta lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità in pericolo, stabilendo che per tali beni occorre attivare con urgenza maggiori interventi di recupero e tutela. La lista serve ad indirizzare un allarme alla comunità internazionale nella speranza che si riescano ad unire le forze nel tentativo di salvaguardia. Ma la cosa più importante è che, una volta inseriti in questa lista, l'UNESCO può indirizzare aiuti finanziari immediati, avviando programmi di recupero per la conservazione dei beni a rischio. Tra i casi di patrimonio mondiale in pericolo c'è la città iraniana di Bam, dove nel 2006, a causa di un terremoto, hanno perso la vita 26.000 persone, e la valle Bamiyan in Afghanistan, dove nel 2001 i talebani hanno distrutto due enormi statue di Buddha, scolpite nella roccia 1800 anni fa. Ma nel patrimonio dell'umanità rientrano non solo beni archeologici, ma anche siti naturali come le grandi riserve della Repubblica Democratica del Congo. Qui, nel 2004, grazie ad un insieme di donatori internazionali, ONG e i governi di Belgio e Giappone, è partito un programma di assistenza da 50 milioni di dollari per la conservazione di 5 parchi nazionali. Questi sono alcuni dei siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e sui quali ovviamente l'attenzione degli studiosi è massima, però volevo partire proprio dalla Siria e lo facciamo con Cristina Menegazzi. Buongiorno. Buongiorno. Cristina Menegazzi dell'UNESCO è di base a Beirut, ma si occupa proprio della salvaguardia del patrimonio culturale siriano che da oltre 2 anni e mezzo è messo a repentaglio dalla violenta crisi che sta attraversando il paese. Cristina Menegazzi, innanzitutto riusciamo a dare un contorno a quella che è il pericolo che sta colpendo ormai da parecchio tempo il patrimonio culturale siriano?

per ovvi motivi, insomma, chi segue noi, ma chi segue la rete internazionale sa benissimo che è sempre più difficile lavorare in Siria. Città come Aleppo, che erano delle città meravigliose, erano dei gioielli, erano ricchissime di cultura, storia e tradizione. Io vedo, scorrendo le fotografie, che insomma, mi verrebbe a dire resta ben poco. Ci sono casi particolarmente gravi, particolarmente urgenti che lei vuole segnalare? Aleppo sicuramente forse è il caso più grave. Ovviamente Aleppo ha una connotazione simbolica anche in questo conflitto, e quindi la ripresa della città, della cittadella, può significare molto di più che una semplice distruzione di un monumento storico. Quindi è chiaro che purtroppo Aleppo si trova a rappresentare è un caso emblematico, insomma, della situazione in cui versa. Ci sono poi dei metodi che vengono usati per riprendere la cittadella, che sono dei metodi che sono distruttivi, estremamente distruttivi. Vengono costruite dei cunicoli praticamente sottoterra e poi vengono fatte saltare le parti che si trovano poi in superficie, quindi si può immaginare la potenza distruttiva che ci può essere in tutto ciò. Ma è chiaro che appunto ci sono stati appelli della direttrice generale dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ci sono state manifestazioni di ogni genere, si è parlato con le opposizioni, con il governo, tutti quanti. Stiamo facendo tutto quello che possiamo per far capire che certo c'è una connotazione simbolica, ma insomma, quando poi viene distrutta una città come Aleppo, non se ne può ricostruire un'altra così. Ecco, quindi l'identità poi anche della popolazione, i posti dove si poteva ritrovare, dove poteva ritrovare le proprie appunto questioni sociali, culturali, eccetera, non sarà più possibile recuperare. Questa forse insomma è la più grande amputazione nel lungo termine che una società può subire in seguito a un conflitto. Grazie mille. Cristina Menegazzi, del progetto UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale in Siria, era con noi da Beirut. Dottoressa Menegazzi, buona serata, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon lavoro a voi. Settimane di Nessun Luogo Lontano abbiamo trattato più e più volte la crisi irachena nel Kurdistan iracheno, ma anche appunto il braccio di ferro politico in corso a Baghdad e quanto questo paese sia, ahinoi, in preda all'instabilità da tanti anni. E adesso la minaccia dell'ISIS non fa che addensare nubi oscure sul futuro di questo paese. In questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano prendiamo per un attimo le distanze da quella che sono i movimenti delle guerriglie sul territorio, da quelli che sono i morti civili e quelli che sono gli esiti in termini di vite umane della guerra. Ci concentriamo piuttosto su quello che è il patrimonio culturale, la cui perdita purtroppo dispiega i suoi effetti non nell'immediato ma nel futuro, perché cancellando la storia, cancellando le radici di popoli e nazioni, in qualche modo si cancella la memoria e anche l'identità. Allora do il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Franco D'Agostino, che è docente di assirologia all'Università di Roma e dirige la missione archeologica ad Abu Peira. Buongiorno professor D'Agostino. Buongiorno a voi. Allora, come sentiva, credo che concorderà con me che cancellare la storia significa cancellare la memoria, e quindi si va a incidere sull'identità di popoli e nazioni, questo al di là di ogni facile retorica. Posso partire con una provocazione, professore? Prego. Allora, l'ospite che la precedeva dell'UNESCO, che si occupa di Siria,

Quello che è cambiato, diciamo, è stato il problema di Baghdad, cioè il fatto che ISIS ha cominciato, non casualmente, tutta questa sua attività nel momento di maggior debolezza del sistema politico iracheno, cioè nel momento del post elezioni, quando stavano decidendo che cosa fare. Sì. E come si vede, questo è il vero problema, non certo ISIS. Non so se mi sono spiegato. È chiarissimo, credo che ISIS, insomma, sia un problema, ma forse è un problema meno grave di quello che appare, diciamo, se non per motivi umanitari, mi raccomando, quello certo. È fatto sempre salvo quell'aspetto lì. Però dal punto di vista politico probabilmente non è il vero problema dell'Iraq, che si sta invece, il cui futuro se lo stanno giocando adesso senz'altro a Baghdad. Certo, per cui insomma, se devo identificare un nemico, qualcuno che potrebbe farvi saltare sulla sedia, è l'instabilità politica del paese. È l'instabilità politica, questo sì. A miei colleghi che lavorano nella zona del Kurdistan hanno problemi più grandi in questo momento, ovviamente. Poi le dico, noi abbiamo sempre l'ambasciata come punto di riferimento, quindi a ridosso della partenza sentiremo che cosa ci consigliano e poi decideremo sul da farci, insomma. Grazie mille, professor Franco Agostino, assiriologo, appassionato, impegnato in prima linea, tra virgolette ovviamente, in Iraq per salvaguardare parte del patrimonio di questo meraviglioso paese. Buona serata, buon lavoro, professore. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano cerchiamo di accendere i riflettori su quella che apparentemente è, come dire, una risorsa di serie B da proteggere nel momento in cui scoppia un conflitto, perché ci sono donne, bambini, profughi e quant'altro da proteggere. Questo è verissimo, però poi quando la crisi, quando la guerra, il conflitto si protrae, allora lì si vanno a intaccare le fondamenta anche culturali, in senso metaforico e non, del paese in cui la crisi è scoppiata. Nell'ultima parte del programma vi porterò in Mali, perché vi ricordate, chi mi segue ha raccontato con dovizia di particolari la crisi maliana, che chissà perché ogni volta che succede qualcosa in Africa i media riservano sempre, come dire, attenzioni minori rispetto al Medio Oriente. E c'è un bellissimo lavoro di un fotografo italiano pluripremiato, che è Marco Di Lauro, che è andato a Timbuktu a scoprire come alcuni guardiani del patrimonio sono riusciti a sottrarre alle milizie jihadiste preziosissimi manoscritti per poi restituirli ai posteri. Nessun luogo è lontano. E chi mi segue sa che ho raccontato nelle scorse edizioni di Nessun Luogo è Lontano quella che è stata una lunga crisi nel Mali, del Nord, minacciato da diverse formazioni jihadiste, quelle formazioni che poi hanno fatto saltare sulla sedia i francesi e li hanno convinti poi a attuare i loro bombardamenti, che in realtà non hanno assolutamente risolto il problema, però quantomeno hanno limitato i danni. È notizia di pochi giorni fa di colpi di mortaio caduti sull'aeroporto di Timbuktu e nuovi raid francesi per andare a cercare di eliminare le sacche di resistenza di questi guerriglieri. Io proprio a Timbuktu vi voglio portare, perché il lavoro che ha fatto Marco Di Lauro, che è un pluripremiato fotografo rappresentato da reportage by Getty Images, è un lavoro molto interessante, perché è assolutamente in linea con, diciamo, la tesi della puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. È: attenzione, quando c'è un conflitto facciamo bene a contare le vittime, facciamo bene a raccontare chi si mette in salvo, ma attenzione, perché ci sono monumenti, ci sono manoscritti e c'è fondamentalmente in gioco l'identità di un popolo. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Marco Di Lauro. Ciao, buonasera, ti ringrazio. Allora Marco, hai fatto questo viaggio a Timbuktu, non eri da solo perché eri con un giornalista? No, infatti ero con Patrick Sims, che è un giornalista americano con cui lavoro da molti anni. Abbiamo lavorato spesso su temi legati alla salvaguardia del patrimonio culturale o all'ambiente, temi comunque importanti in posti in conflitto e di solito appunto dopo la fine dei conflitti. Certo.

quella vicenda lì è andata bene. L'altra vicenda che è andata bene perché il WWF ha fatto una grossissima campagna per bloccare le esplorazioni della britannica Soco, esplorazioni che erano assolutamente invasive in una zona vulcanica, esplorazioni che andavano a compromettere l'habitat, perché ci sono anche popolazioni locali che vivono di quell'habitat, ci sono i gorille di montagna che sono in continuo pericolo di estinzione, c'è una varietà di legname incredibile, insomma una ricchezza, un patrimonio gigantesco. Ebbene, alla fine il WWF ce l'ha fatta, la Soco da alcuni mesi ha abbandonato i suoi propositi di esplorazione, insomma, in queste storie di nessun luogo lontano, di salvaguardia, questa diciamo che per il momento è quasi finita bene, quasi, perché purtroppo il North Kivu rimane una zona estremamente instabile, una zona in cui ancora il governo centrale non è riuscito a risolvere i problemi dei tanti gruppi armati e dei bracconieri che quotidianamente mettono a repentaglio questo gigantesco e fantastico gioiello del Congo. Tempo quasi scaduto, allora non mi resta che ringraziare Mire Locchetti, Nadia Zammiti in redazione, Carmelo Lauricella che ha dato musica e ritmo a questa puntata speciale di Ferragosto in Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento, oltre al meglio di questo weekend, è per lunedì prossimo ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.